Pensata di ecumenismo. Stiamo sicuri che è un accrivista, ha letto e studiato tutti i documenti del dialogo ecumenico, quindi dal punto di vista informativo, critico, ci darà un saggio e probabilmente citerà Svelli con suo impeto colorito. E con questo io già ho dato già molti elogi alla sua persona, lo ascoltiamo. Prima di tutto, proprio per pormi sulla linea di quanto ha detto Don Luigi, racconterò un aneddoto. Cinque anni fa ci trovavamo a Bressanone. A Bressanone. E alcuni di loro erano a Bressanone. Verso le 3:30, non ricordo bene, dopo una abbuffata da parte di qualcheduno e dopo essere andati a vedere un bel monumento, si è cominciato la relazione, toccava a me quella volta. E dopo un certo punto molta gente pencolava. E io vedevo continuamente i nasi spuntare fuori a destra e a sinistra. Fatto, qui c'era Monsignor Garditer e poi di là c'era Monsignor Sartori. Ogni tanto vedevo anche lui che faceva così. Viene poi dopo il dibattito e fa l'osservazione. E io durante la relazione, proprio a un certo punto, ero stato tirato da una persona che mentre parlava c'era così. E mi sono legato quel momento della relazione con... Proprio quella persona, che è un mio caro amico, tale mi è stato, tu non fare nomi, è sempre stato, ha fatto una difficoltà che era azzeccata. E io ho risposto. E poi ha insistito, è stata la seconda istanza. Allora io ho detto, ma come mai proprio tu, che in quel momento in cui dicevo parlavo di questo punto, dormivi, hai il coraggio di riprendere la obiezione? Di là, un signor Gaghetti mi fa, padre, stia buono. E di là invece Don Luigi dice, ma no, qua e là. E io ho detto, ma anche tu? Dopo tutto questo 20 minuti in cui non sei riuscito a seguirmi, hai il coraggio di intervenire. Poi, sa, un po' alla volta come capitano queste cose, ci siamo rimessi, ma... amicissimi, ecco. Credo che sarà la stessa cosa più o meno, con buona volontà. Comunque io non avrò difficoltà e andrò avanti. Seconda cosa, i fogli che avete ricevuto, purtroppo non mi sono riuscito bene perché con la fotocopia l'inchiostro chiaro non arrivava e l'inchiostro scuro è andato troppo, mi dispiace. Appunto, no, chi ha delle copie ancora qui? È una terza terza piccola osservazione è questa. A parte lo scherzo, non l'ho mai fatto, ma questa volta sento proprio il desiderio di invocare lo spirito del Cristo affinché elargisca una reale intelligenza della parola di Dio così come è vissuta nella vivente tradizione e insieme doni la capacità di accogliere la sua autentica presenza anche negli itinerari delle chiese sorelle e nell'invocazione di Dio, talora inconsapevole, degli uomini d'oggi. Avete una proposta in questo schema. Ci sono due premesse, il problema del papato e l'assunto della relazione ai suoi limiti. Alcune cose li svolgo e altre le riassumo. Prima di tutto, un cenno per contestuare l'intervento. Esso si collega con i tre precedenti. Posta infatti la rivisitazione e puntualizzazione dell'esegesi biblica dei testi petrini, fatta la ricognizione del molteplice storicizzarsi del servizio petrino e a monte della sua effettiva possibilità di radicarsi nel Nuovo Testamento, rilette le dogmatizzazioni del papato nei concili Vaticano I e II, si può utilmente interrogarsi intorno ad alcuni orientamenti metodologici nuovi sul papato, rilevabili nei dialoghi ecumenici, soprattutto ufficiali. Questa almeno era l'indicazione data nella lettera di invito. La sistematica, non solo la sistematica, ma anche la sistematica, non riesce ad eludere l'interrogativo ricorrente di un papato quale massimo ostacolo del cammino ecumenico verso l'unità della Chiesa di Cristo. A proposito di ciò, è noto il ricco spettro delle posizioni, sia teorizzate, sia rilevabili nella prassi. Di quelli che ritengono assolutamente irrecuperabile il papato all'interno della cattolica, a quelli che addirittura ne auspicano, sia pure condizionalmente ad un suo rinnovamento, la presenza. Significativa appare a questo riguardo, per esempio, l'opera che riguarda la teologia protestante del XX secolo di Hart, Papstum et Ecumene. Il fatto non deve sorprendere. Il problema di un servizio petrino a livello della comunione delle chiese risulta complesso, fra l'altro, a motivo sia della pluralità di aspetti del Vescovo di Roma, sia della molteplicità di concezioni dell'unità delle chiese, che cose già note ma che ricordo. Circa il primo punto, annota un autore, bisogna distinguere fra l'immagine del papato che l'insieme della grande tradizione veicola e quella che dal Vaticano II la Chiesa Cattolica riconosce come la sola integralmente conforme all'intenzione del Cristo. Fra il modo in cui i teologi concepiscono l'esercizio di questo primato è quello in cui lo comprende l'opinione pubblica. Fra la funzione stessa e la maniera in cui la compie il tal Papa tenendo conto delle circostanze, fra il Papa che esercita il suo ministero per la comunità cattolica, Chiesa Cattolica, quale esiste dopo lo scisma d'Oriente e poi d'Occidente, e il Vescovo di Roma che esercita il suo primato, tra virgolette, in seno alla comunione restaurata delle Chiese che il movimento ecumenico spera e prepara. È chiaro che questi approcci, questi aspetti sono certo ritagliati sulla stessa realtà, si rinviano l'un l'altro, non indicano però lo stesso versante del papato e quindi complicano il problema. Relativamente poi alla differente ermeneutica dell'unità visibile fra le chiese, anche tralasciando la posizione di coloro che non la giudicano utile o almeno positiva per il servizio del regno, e pur valutando le cose dall'oggi del movimento ecumenico, occorre dire che non si dà una generale convergenza circa il concetto traguardo auspicabile del movimento ecumenico a questo riguardo. Seconda premessa. Nella relazione si tratta del papato, ma in riferimento agli orientamenti metodologici nuovi che lo riguardano. Almeno questo soprattutto. Si tratta di tali orientamenti, ma sulla base della loro emergenza da dialoghi ufficiali. In conformità poi alla dinamica che regge i documenti ecumenici ufficiali, di fatto si avrà particolare attenzione al papato in quanto autorità universale. E solo congiuntamente, ovviamente, relativamente al papato nel suo aspetto primaziale di giurisdizione e più precisamente nel suo versante di infallibilità magisteriale. Infine, occorre rilevare che quando si parla di orientamenti nuovi, e qui ricordo un bello studio di Hohmeier, anche se lo riguarda indirettamente, si è consapevoli del valore relativo che ha nel tempo ogni novità, senza con ciò in definitiva togliere terreno alla speranza. Si deve osservare che il fatto di attestare il nostro discorso sui documenti ecumenici ufficiali manifesta uno dei limiti della nostra relazione. Ciò infatti, se da una parte costituisce un motivo di credibilità delle conclusioni, all'interno del documento ecumenico evidente, dato che i dialoghi ecumenici ufficiali sono espressioni autorizzate delle chiese stesse, dall'altra parte, dal momento che essi non possono autorizzarsi a rappresentare tutte le realizzazioni, anche quelle a livello operativo, teorizzate del movimento ecumenico, circoscrivono il peso delle conclusioni stesse. Testi di convergenza in cui si producono dialoghi ufficiali non esistono, ad esempio, ancora nei rapporti bilaterali fra la Chiesa romana cattolica e gli orientali. Il dialogo della carità è arrivato al dialogo teologico, ma non ha ancora offerto un traguardo fissato in documenti ufficiali. Anche se il problema papato nella relazione fra le due comunioni è in certo qual modo in primo piano, o almeno costantemente quasi fondale di ogni ipotesi di lavoro e traguardo. Pensavo qui di fare un cenno alla situazione con gli orientali, perché hanno un valore anche alle fine di orientamenti metodologici, ma desidero stare al tema e perciò non apro questo paragrafo. Prima di chiudere le premesse, circa la bibliografia, molte opere sono state citate, si avrà l'indicazione di alcuni scritti nella vasta, almeno se stiamo a livello di articoli, produzione già in atto, negli atti stessi. Io ricordo personalmente, anche se è stato citato, questa opera Pastum ans Ecumenische Frage, soprattutto per le tesi di introduzione, poi alcune conclusioni, alcuni dibattiti, le 10 tesi di Stirnemann e quello di 8 di Moltmann. Ricordo quest'opera di Thiar, l'évêque de Rome, che mi ha dato molte ispirazioni, anche se giustamente è stato rilevato che forse, anzi senza forse, non dà spazio sufficiente al rapporto con gli orientali. Un'altra opera che è uscita, anche questa è uscita nell'82, che mi è servita in particolare, è questo di Congar, Diversité et Communion, della Cogitatio Fidei. Interessate il testo? È già una tesi, non comunione e diversità, ma diversité e comunione. Primo, vedete, i dialoghi ecumenici ufficiali al papato, è un primo punto. È un secondo punto, in lettera romano, gli orientamenti metodologici sul papato. Tralascio alcuni appunti che ho fatto sul dialogo oggi e le difficoltà che ha incontrato, mi riferisco anche all'interno dell'ecumenismo. Basta riferirsi, per esempio, per i nostri fratelli non in piena comunione con la Chiesa Cattolica Romana, all'intervento di Lucas Fischer e a quello, anche se è un altro punto di vista, di Damaskinos, che lo rifiuta proprio per quelle stesse premesse per cui il Vaticano II invece l'ha portato avanti come non solo strumento, ma messaggio, valore in se stesso. Lascio anche di fare una distinzione circa la pluralità di aspetti dei dialoghi, circa mondiali, locali, eccetera, eccetera. Vengo subito ai documenti che sono qui indicati. Primo, la Commissione Mista dell'Alleanza Mondiale Luterana e del Segretariato Romano per l'Unità dei Cristiani, rapporto di Malta. Spero, dico subito, è una delle spine che maggiormente mi accompagna in questa relazione, che questa lettura, in parte abbastanza analitica, dei documenti non mi faccia passare troppo pesante e pedante la cosa, ma mi sembra importante per tirare poi delle conclusioni. Dunque, per quanto riguarda questo rapporto di Malta del 71, hai fatto un cenno già ieri sera con Sartori per alcune premesse. Si tratta, e io mi riferisco in particolare a questi due paragrafi di notevole valore ecumenico, dato che essi hanno di fatto, mi sembra, come pilotato l'attenzione futura delle Chiese, e dal momento che contengono molteplici connotazioni metodologiche nuove sul papato, ci sembra bene riferirli almeno in parte. Paragrafo 66. Un problema di particolare importanza per il rapporto tra luterani e cattolici si è rivelato quello del primato del Papa. Da parte cattolica è stata richiamata l'attenzione sugli inizi di questa dottrina nella testimonianza della Bibbia, circa la speciale posizione di Pietro e sul modo differenziato di intendere tale primato nel primo e secondo millennio. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, con la sua dottrina sulla collegialità dell'Episcopato, ha posto il primato in un nuovo orizzonte interpretativo, impedendo in tal modo una comprensione isolata e unilaterale ampiamente diffusa. Il primato della giurisdizione deve essere inteso come servizio a beneficio della comunità e come legame dell'unità della Chiesa. Questo servizio per l'unità è anzitutto un servizio reso all'unità nella fede. Il ministero del Papa include anche il compito di curarsi delle legittime differenze della Chiesa locale. La configurazione concreta di questo ministero può essere molto variabile in relazione alle condizioni storiche contingenti. Da parte luterana si è riconosciuto che nessuna Chiesa locale può isolarsi, essendo manifestazione della Chiesa universale. In questo senso viene vista l'importanza di un servizio per la comunità delle chiese e nello stesso tempo si fa richiamo al problema che sorge per i luterani in seguito alla mancanza di tale efficace servizio per essi dell'unità. Per questa ragione il ministero del Papa, inteso come segno visibile dell'unità delle chiese, non è soltanto escluso qualora esso venga subordinato tramite una reinterpretazione teologica e una ristrutturazione pratica al primato del Vangelo. 66. Paragrafo 67, breve. Tra i cattolici e luterani è tuttavia rimasto controverso il problema se il primato del Papa sia necessario per la Chiesa oppure se esso rappresenti solo una funzione possibile in linea di principio. Che dire di questo documento? Primo, il primato del Papa è posto sotto l'istanza di un segno visibile dell'unità delle chiese. L'autorità primaziale del vicario di Pietro è focalizzata in termini di servizio universale per le chiese locali. Queste, pertanto, devono essere salvaguardate nella loro legittima differenza. Secondo, ai fini di tale servizio dell'unità si impone un'opera di rinnovamento del papato. Si esige concretamente una sua reinterpretazione teologica e una sua ristrutturazione pratica. Solo questo rinnovamento lo renderebbe compossibile con il primato del Vangelo. Terzo, l'interpretazione variabile del papato, anzi molto variabile, dice il testo, rilevabile nella storia, rende possibile e auspicabile tale rinnovamento. In particolare, di fatto, c'è stato un modo differenziato di intendere il primato nel primo e secondo millennio. Il Vaticano II, poi, ha posto il primato in un nuovo orizzonte interpretativo. Quarto, in questi termini, un primato papale è da intendersi possibile nella unica Chiesa riconciliata. Una valutazione globale del documento non può non prendere atto di aspetti problematici. Possibile o necessario, primato, e di aspetti positivi, sottolineatura della storia come possibile luogo teologico di ermeneutica del papato, dell'aspetto di servizio del papato, del primato del Vangelo. Secondo documento, dialogo ufficiale luterano-cattolico-romano negli USA, ministero e chiesa universale, atteggiamenti divergenti di fronte al primato papale. Il lungo documento contiene l'esito di un dialogo ufficiale locale specifico sul primato del Papa, contestualizzato nella ministerialità generale della Chiesa e in quella specifica della parola e del sacramento. Primo, nelle premesse si afferma che l'unità è servita in molti modi, non solamente di questa parte. Si fa distinzione circa la forma di ministero all'interno della Chiesa universale tra primato papale e infallibilità. Base comune per i luterani è la necessità di un ministero specifico per l'unità e la missione. Per i cattolici la necessità di sfumare il ruolo del papato. Riferisco cose puntuali del testo. La funzione petrina viene descritta come una forma particolare di ministero esercitato da una persona titolare di un ufficio o da una chiesa locale in vista della chiesa nel suo mistero. Secondo, principi di rinnovamento del papato sono in generale il principio della legittima diversità, della cattolicità, della collegialità e della sussidiarietà. Numeri 23, 25, eccetera, eccetera. In particolare, per i cattolici, la prospettiva di un papato al reale servizio della parola da inculturalizzarsi e la volontà autolimitativa del primato di giurisdizione. Numero 26, numero 27. Per i luterani, fra l'altro, la doverosità di prendere in considerazione ministeri esistenti per l'unità delle chiese e la possibilità di riconoscere il ruolo benefico del papato nella storia. Terzo, i punti salienti del documento sembrano essere la sottolineatura del carattere più pastorale che giuridico del primato papale, numero 28, l'affermazione della necessità che si dia un ministero specifico per l'unità visibile della Chiesa, stesso numero, e che il Vescovo di Roma possa svolgere tale ministero a condizione che avvenga nel rispetto del Vangelo e della libertà cristiana, numero 30. Il rilievo che il papato ha mostrato autointerpretazioni storiche diverse e che può e deve reinterpretarsi anche oggi, numero 29 e 30. L'appello volto alle chiese cattoliche, alla chiesa cattolica, circa il riconoscimento delle legittime tradizioni della comunione anglicana, del suo autogoverno all'interno della comunione, della sua qualifica di chiesa sorella, che ha titoli per una qualche misura di comunione ecclesiastica. Una valutazione. La dichiarazione rappresenta un passo in avanti decisivo nella discussione ecumenica di uno dei problemi più difficili che hanno storicamente diviso le chiese luterane e cattoliche. La dichiarazione comune ha un significato positivo, nel senso che contiene un chiaro riconoscimento da parte dei luterani della commissione ammissione che la Chiesa ha bisogno di un ministero unificatore nei confronti dell'apostolato mondiale e che questo ministero può essere effettivamente esercitato da un papato rinnovato, perlomeno come organo costituito per diritto umano. La dichiarazione comune, tuttavia, non riflette pienamente quel che i cattolici credono a proposito del papato. La citazione dell'ufficio papale è per noi obbligatoria perché crediamo che tale sia la volontà di Dio per la sua Chiesa, così un autore. Il papato è, in un senso vero, divinamente istituito. Terzo, questo non significa che il termine diritto divino, ius divinum, sia oggi bene azzeccato, numero 50. Esso non esprime più in maniera adeguata quel che noi crediamo a proposito dell'istituzione divina del papato. Non significa neppure che il Vaticano I non debba essere interpretato secondo la metodica dell'interpretazione delle formule dommatiche. Non si tratta solo di termini, ma anche di approfondimenti dottrinali. Infine, si può rilevare, certo, niente assolutismo monarchico, tuttavia autorità reale, niente violazione alle coscienze, tuttavia reale servizio alla parola di Dio, niente trionfalismo, ma anche riconoscimento di benemerenze niente recedimento di stili di esercizio, ma neppure prospettiva di possibilità di abolizione. Dichiarazione della Commissione Internazionale Anglicano-Cattolica-Romana, l'autorità nella Chiesa, del 76. La dichiarazione cosiddetta di Venezia comprende 6 parti, 26 paragrafi. Essa merita attenzione perché, in parte, terminus a quo della final report di quest'anno, dell'ACI. Secondo, il concetto di autorità vi è articolato nei suoi vari aspetti, i soggetti, popolo fedele, ministri ordinati, il vescovo, i patriarchi, i concili, il vescovo di Roma, i livelli locale, regionale, universale, i fondamenti dell'autorità, la santità della nostra vita, i doni specifici dello Spirito Santo, l'ordinazione sacramentale, il suo approccio cristologico, la signoria di Cristo, e quello preautomatologico, l'esercizio dell'autorità nello spirito dell'azione dello Spirito Santo. Terzo, un certo metodo attento sia alla cattolicità sia alla specificità. Alla cattolicità, cioè attenzione alla pluralità dei soggetti, dei fondamenti, dei livelli dell'autorità, la pluralità di sedi primaziali, la pluralità di mezzi per risolvere la conflittualità che ci sia fra i fratelli. Quindi un'apertura a tutto ciò che può intervenire a livello di questi aspetti. Però anche la specificità, cioè la ricerca di quello che è lo specifico del papato a servizio dell'unità e comunione della comunità. 4. Alcuni altri aspetti positivi mi sembrano importanti per la nostra relazione. Il linguaggio biblico, la sottolineatura dell'azione dello Spirito Santo, l'orizzonte della fraternità fra i vescovi e i fedeli, la distinzione fra ideale e storicizzazione del papato, il necessario equilibrio fra collegialità e primato, il valore della sussidiarietà, la diversità, la recezione graduale delle forme, eccetera. Difficoltà, chi si può chiedere? In che senso la comunità è valutativa dell'insegnamento del Magistero? Qual è il fondamento ultimo del papato? Che significato conseguentemente ha e deve avere questa espressione diritto divino, diritto ecclesiastico, in riferimento al papato? Si dà solo una responsabilità nel papa o anche un effettivo potere o autorità? Come viene accolta una giurisdizione immediata universale, sia pure nel senso delle precisazioni molto belle del professor Putmaier? È possibile una volontà delle chiese senza accoglienza dell'infallibilità? La gerarchia è ad esse della Chiesa o solamente ad bene esse della Chiesa? Ci sono perciò delle piste da portare avanti che mi sembra di poterle coordinare intorno alla criticità. Criticità dell'esegesi biblica, criticità, intendo dire maggiore, ovviamente, criticità intorno a questo significato di diritto divino e umano, criticità di testi conciliari relativamente al papato. Un altro documento, dialogo fra l'Alleanza Riformata Mondiale e il Segretariato dell'Unità dei Cristiani, la presenza di Cristo nella Chiesa e nel mondo, del 77. Mi sembra dover regolare i seguenti punti salienti. Quanto all'ecclesiologia, deve essere portata avanti in prospettiva cristologica e insieme preautomatologica. Ritorno a questa cosa. Quanto al rapporto fra Sacra Scrittura e tradizione, i cattolici insistono, nella luce della Dei Verbum, non in termini paralleli o alternativi. I riformati dicono in modo che una certa tradizione venga recepita. Si riconosce il ruolo della Chiesa, anche se da precisarsi, nella genesi del canone. Quanto alla comunità e all'insegnamento, si afferma che il soggetto responsabile dell'insegnamento è la comunità da parte dei riformati. I cattolici insistono su una responsabilità specifica del magistero a questo riguardo. Quanto alla cattolicità, per i riformati questa deriva dalla appartenenza alla comunità. Per i cattolici, ovviamente, no? Dal legame con il vescovo di Roma, almeno come ruolo decisivo. Quanto all'infallibilità, numero 39,2 per esempio, non viene accolta da parte dei riformati, numero 42. Non deve essere solidizzata e generalizzata, dicono i cattolici. Quanto alla apostolicità, nel numero 47, si ammette, oltre a quella di dottrina, anche di successione. Quanto ai ministeri, una parola su questo punto. La struttura fondamentale della Chiesa e del suo ministero è collegiale, nelle varie forme già arrivate stamattina, sinodale, eccetera. Ci sono però accenti differenti fra le due tradizioni, circa il ministero, non si parla di divergenze, accenti differenti. Dipendenti soprattutto da mentalità diverse, in cui hanno influito fattori culturali, sociologici, economici e sfumature diverse della spiritualità. Numero 105. Il documento rileva anche che ci sono delle posizioni transconfessionali, a livello teologico ovviamente, circa il ministero, che dipendono da situazioni particolari. Una valutazione. Un cenno. Si dice, esistono certamente delle differenze di natura sostanziale, ma il nostro lavoro è la prova di una notevole serie di convergenze di accordo. Che cosa dire per precisare questa espressione del documento? Il cammino sembra ancora lungo, ma avviato con lucidità e generosità da ambe le parti. Si dà la consapevolezza di una volontà comune ai fini di chiarificazione per la missione. Emerge il valore della storia, numero 105, una prospettiva di complementarità sembra profilarsi all'orizzonte di talune impostazioni, numero 66, numero 102. Si manifestano la coscienza di tematiche le quali sottolineo più che altro il configurarsi di accenti diversi e non di contraddizioni. Si ipotizza, infine, un cammino aperto. Un altro documento. Il dialogo ufficiale luterano-cattolico-romano negli USA, Teaching Authority and Infallibility in the Church, del 78. Il documento globalmente comprende tre parti. Prima la dichiarazione comune, the common statement, suddivisa in un breve sguardo all'autorità dottrinale in rapporto alla questione dell'infallibilità, eccetera, eccetera. Secondo, le riflessioni dei cattolici sui documenti. Terzo, annotazione luterana. Adesso spero che torni utile leggere questo passo e poi aggiungere due o tre righe di documenti. Al paragrafo 53 della dichiarazione comune, è il centro di tutto il documento. Almeno secondo me, e anche questo anche al centro. Per i luterani, gli sviluppi dei due ultimi decenni hanno apportato una luce nuova sul dogma dell'infallibilità del Papa. Ricordo che anche il professor Pormaes stamattina l'ha citato, in parte. Gli studi storici e linguistici sul significato del dogma, l'accento messo fin dal Vaticano II sulle relazioni collegiali tra Papa e Vescovi, sia nella riflessione teologica, sia nella pratica, l'inizio di un nuovo stile di leadership papale da parte di Papa Giovanni e di Papa Paolo, possono aiutare i luterani a comprendere che il Papa non è un monarca assoluto. È il punto. Il ministero del Vescovo di Roma dovrebbe essere visto come un servizio sotto l'autorità della parola di Dio. La dottrina dell'infallibilità è una espressione della certezza che lo Spirito di Dio abita nella Chiesa e la guida verso la verità. Questa comprensione dovrebbe impedire ai luterani di temere che l'infallibilità papale sia una usurpazione dell'autorità sovrana del Cristo. E dovrebbe pure mostrare chiaramente che questo dogma non è il dogma centrale della Chiesa Cattolica e che esso non allontana il Cristo dal suo ruolo redentore e mediatore. Numero 53. Il testo è perspicuo. Acquisizioni e limiti possono essere posti in rilievo facilmente. Resta tuttavia una grande tappa nel cammino verso l'unità dei credenti in Cristo. Perché noi dobbiamo partire, riferirci non a quello che non c'è ancora tutto, ma da dove siamo partiti? Per capirci qualche cosa. Ma non si capisce cos'è il ecumenismo. Si noti come l'esercizio concreto del papato si richiama a Giovanni XXIII e da Paolo VI. Gioca un ruolo decisivo nel giudizio dei fratelli luterani. L'esercizio. La modalità del servizio dell'unità ne fa anche desiderare, si parla di desiderability, numero 32, l'esistenza. Infine, si ponga l'attenzione, osserva padre Thiard, come il servizio dell'unità è quello che giustifica il primato romano. Di nuovo dunque la modalità. Un altro documento. La commissione mista romano-cattolica evangelico-luterana, das Geistliche Amt in der Kirche. I paragrafi che interessano il nostro argomento sono soprattutto, mi sembra, il numero 67, da 67 al 73. Questi paragrafi trattano del ministero episcopale e del suo servizio per l'unità di tutta la Chiesa, letteralmente per l'unità universale della Chiesa. Cattolici e luterani partono dalla comunione all'interno della Chiesa locale. Cattolici e luterani passano alla comunione fra le chiese locali a livello universale. Cattolici e luterani scorgono la necessità di un servizio efficace per realizzare tale unità comunione. I cattolici individuano tale servizio nella Chiesa di Roma e nel Vescovo di Roma come titolari della cattedra di Pietro. I luterani aprono su uno spettro di possibilità un concilio generale, un collegium, un vescovo rispettato in tutta la cristianità, eccetera. A proposito di quest'ultima prospettiva, si osserva che stando a molti dialoghi risulta che non si deve escludere da parte dei luterani la possibilità, di Möglichkeit, del ufficio di Pietro del Vescovo di Roma come visibile segno dell'unità di tutta la Chiesa, purché esso, ritorna a Malta, venga subordinato tramite una reinterpretazione teologica e una ristrutturazione pratica al primato del Vangelo. Numero 73. Si vede, non si dà da parte dei luterani alcun atteggiamento aggressivo contro il Papa configurato come anticristo. Non esiste ancora, d'altra parte, alcun riconoscimento dell'ufficio petrino per l'unità di tutta la Chiesa. Si è aperti alla possibilità di ciò. Essa è intesa come una delle possibilità e ancora in modo condizionato. L'ultimo documento. Commissione internazionale anglicano-cattolica-romana, questo rapporto finale. Di questo rapporto finale, che comprende vari documenti, quello sull'Eucaristia del 71, di Ministero di Ordinazione, dell'autorità, eccetera. Io tengo presente quelli che interessano il nostro tempo, che è sul papato. E quindi, la premessa, l'introduzione, le osservazioni alla autorità 1, di Venezia del 76, e lo statement circa l'autorità 2. Quello ultimo che è uscito adesso per prima volta. Alla fine presenterò anche le osservazioni, dopo un breve cenno alla lettera nota di Ratzinger, le osservazioni della sacra congregatio pro fidei. Unità. Unità fidei. Primo, punti rilevabili nel documento, nella premessa, introduzione, nei chiarimenti ed autorità, ad autorità nella Chiesa. Uno. Primo, si avverte che i tre problemi di Eucaristia, ordinazione e ministeri e autorità sono in definitiva problemi ecclesiologici. Si desidera una loro ridefinizione dottrinale che eviti il linguaggio di controversia, distingua fra ideale e realtà del primato e sia organizzata attorno al concetto fondamentale di comunione. Secondo, l'unione con Dio in Cristo Gesù mediante lo Spirito Santo costituisce il cuore della coinonia cristiana. Nelle dichiarazioni si presenta l'Eucaristia come il segno efficace della coinonia, l'Episcopè, le sue varie espressioni, come servizio della coinonia e il primato come legame e centro visibile della coinonia. Terzo, la rivelazione cristiana è conclusa, lo Spirito Santo ne è il mediatore nella sua interpretazione attualizzante. In questo ambito si coordina la tradizione con la Sacra Scrittura. Essa non va oltre la Scrittura e, d'altra parte, deve utilizzare gli strumenti culturali attualizzanti la Scrittura, in termini ermeneutizzanti. Quarto. Quanto al concetto di accettazione dei concili ecumenici, la Commissione evita due posizioni estreme. Da una parte, rifiuta il punto di vista secondo cui una definizione è priva di autorità finché non è accettata dall'intera Chiesa o che trae la sua autorità unicamente da una tale accettazione. Dall'altra, la Commissione nega che un concilio sia tanto evidentemente manifesto, autosufficiente, cosicché le sue definizioni siano in tutto indipendenti dalla loro accettazione. Così si cerca di integrare il laicato anche nel processo decisionale magisteriale. Quinto, autorità e giurisdizione. Pur evitando l'espressione autorità gerarchica, se ne afferma la res. Esiste un'autorità, e si spiega, un potere, compiuto, conferito dallo Spirito Santo a coloro che sono ordinati ad esercitare l'episcopo nella Chiesa. La giurisdizione è l'autorità o potere necessaria ad un effettivo adempimento di un ufficio. Essa si dà, anche se va intesa, assolutamente, in termini di complementarità. Sesto, primato e storia. Bisogna leggere tutto il numero 8. E inoltre, per quanto riguarda ciò che mi interessa, il primato non è solo esito della storia, ma anche della volontà di Dio. Il primato di Roma, in dipendenza dalla testimonianza di Pietro e Paolo e dall'esercizio universale dell'Episcope, cito, non può essere dissociato dall'azione provvidenziale dello Spirito Santo. E si precisa, testualmente, il disegno di Dio mediante lo Spirito Santo è stato, noi crediamo, di preservare allo stesso tempo la feconda diversità all'interno della coinonia delle chiese locali e l'unità nelle cose essenziali che devono caratterizzare la coinonia universale. Il primato universale, dunque, non deve pregiudicare la conciliarità. Gli anglicani a volte temono la prospettiva di una supercentralizzazione. I cattolici romani la prospettiva di una incoerenza dottrinale. Una fede che bandisca il timore potrebbe vedere semplicemente la prospettiva di un giusto equilibrio tra un primato che serve l'unità e una conciliarità che mantiene la giusta diversità della coinonia di tutte le chiese. Secondo punto. Vengo a autorità nella Chiesa 2, la dichiarazione, su cui tutto il resto. Alla fine della dichiarazione autorità nella Chiesa 1 si dicevano solo quattro problemi che restano ancora in sospeso e devono essere approfonditi. Bene, vediamo brevemente questi quattro problemi. Primo, i testi petrini. Che cosa si afferma? E si dice, si dà una leadership di servizio di Pietro nel collegio apostolico nella Chiesa. Paragrafo sesto. Quanto alla trasmissione, a livello di ministero di unità, questa non è esplicitata nel Nuovo Testamento ed è interpretata in modo divergente presso i padri. Il primato del Vescovo di Roma, numero 7, non è sufficientemente basato nel Nuovo Testamento. Numero 9. Si ritiene però necessario un primato universale, che dovrebbe essere quello del Vescovo di Roma. Secondo punto. Quanto allo ius divinum, cioè ex ipsius Christi Domini istituzione seiure divino di cui ci ha parlato l'ultima relazione. Questo, numero 11, non va preso nel senso di implicare che il primato universale in quanto istanza permanente è stato fondato direttamente da Gesù durante la sua vita terrena. Perciò un'altra chiesa che non abbia manca solo del fatto che non appartiene alla manifestazione visibile della piena comunione cristiana che è mantenuta nella Chiesa Cattolica Romana. Terzo punto, la giurisdizione. Dopo una sistematica visione di essa, che ripete altre cose, si dice occorre che abbia uno scopo decisamente pastorale. Si articola e deve articolarsi sia teoricamente che praticamente sul rispetto diverso della conciliarità, sul rispetto dovuto alla conciliarità e alle tradizioni legittime. Quanto al quarto punto, l'infallibilità. Dopo che viene distinta dalla indefettibilità, si afferma l'assenso dei fedeli è l'indicazione conclusiva che le decisioni autoritative della Chiesa in materia di fede sono autenticamente preservate dall'errore mediante lo Spirito Santo. Quanto al Vescovo di Roma, dopo che si è parlato dell'esercizio sinodale primaziale, si dice, da parte dei cattolici, adempiute le condizioni, il giudizio è esente dall'errore e perciò la proposizione è vera, decisamente certa della verità. Quanto agli anglicani, se la definizione proposta all'assenso non fosse manifestamente una legittima interpretazione della fede biblica e in linea con la ortodossa tradizione, gli anglicani ritengono che è dovere riservare la recezione della definizione allo studio e alla discussione. Si appella quindi a una autorità multipla e si escludono le definizioni mariane, non si accetta. Fin qui il rapporto finale. Quanto adesso alle osservazioni da parte della Sacra Congregazione pro Doctrina Fidei, c'è stato questo testo finale, c'è stato questo intervento della nota del Cardinal Ratzinger a Monsignor Clark, presidente della commissione dell'ARCIC, e il 6 maggio l'Osservatore Romano ha presentato queste osservazioni sul rapporto finale dell'ACI, che erano già state mandate ai presidenti, eccetera. C'è tutta una storia che non sto adesso nel tempo di ripetere. Prima osservazione. Il final report è il serio tentativo di una convergente interpretazione dei valori considerati fondamentali per ambedue le comunioni. Ma non è un sostanziale accordo, substantial agreement. In inglese significa sostanziale, reale, genuino, mentre da noi potrebbe essere interpretato da noi un accordo sulle verità essenziali della nostra fede. E c'è stata questa ambivalenza. Infatti, perché non c'è stato questo? Per quanto riguarda il nostro problema. Niente accordo sull'infallibilità, non viene riconosciuto dal Papa. Esclusione delle definizioni mariane. B. Accettato solo in parte il primato del Vescovo di Roma quanto a ius divinum. C. Non c'è un'esatta interpretazione, dal punto di vista cattolico, della teologia cattolica, del rapporto fra primato papale e struttura della Chiesa e sulla recezione. Quanto al metodo, sì al dialogo, dicono le osservazioni, però non sia solo critico storico, non si ferma solamente al metodo critico storico nei testi petrini, occorre continuare a lavorare, occorre allargare il lavoro. L'allargamento significa andare anche ai problemi morali e soprattutto cercare di confrontarsi con il problema della sacramentalità, della successione apostolica. Che dire? Chiudo dicendo, sono dei problemi da portare avanti. Che cos'è il dogma? Cos'è la sua interpretazione? Che cos'è una recezione del suo rapporto con questo exese? Che cos'è una tradizione interpretativa? Che cos'è una lettura che sia esclusiva e non anche aperta, comprensiva? Che cos'è tenere presente degli altri, delle altre chiese? Questa è un'osservazione di Congare e di Rane. Che cos'è gerarchia di verità? Gerarchia delle verità. Che cos'è presenza dello Spirito Santo? Che cos'è passaggio dalla comunione all'universale, dalla costituzione allo spirito, dall'oggettivo al soggettivo? Sono problemi che possono essere, posti in rapporto a questo documento. Con ciò ho finito questa parte. Spero che non vi sia stata troppo lunga. Il secondo punto. Gli orientamenti metodologici nuovi emergenti da questi dialoghi ecumenici. Dico subito che è una proposta. Una proposta. La proposta è questa. Il papato come servizio della comunione, uno. In una diversità riconciliata, due. Con attenzione allo Spirito Santo e alla storia, tre. È una proposta. Questio libere disputata, almeno in alcune parti. Tale desidero sottolineare e presentare. Prima di tutto tralascio quello che riguarda i problemi di statuto critico di ciò che è dialogo ecumenico, il valore dei documenti ecumenici come studio, eccetera, eccetera, l'incidenza che può avere, un problema molto importante, è scritto molto a livello dei... Tralascio anche di sottolineare come parlare di orientamenti metodologici significa presentare anche una certa criteriologia, è una certa tensione progettuale per un futuro. Sottolineo ancora che è una proposta. Primo punto, servizio della comunione. Vedete, si va dalla Chiesa, nella sua autocomprensione di comunione, al servizio specifico della comunione da parte del papato, a un'interpretazione di questo servizio specifico in termini di personalità corporativa. Ci ha già accennato questo punto. Bene. Io, per quanto riguarda il concetto di comunione, dico, lasciando, supponiamo che sia presente, che si presente anche la grande importanza che ha a livello degli studi e presente a livello di questi dialoghi ecumenici, come ho messo in evidenza. Un concetto da rilevare è questo, che la comunione, questo è come dire, non è solamente relativa al mistero di Chiesa nel suo statuto invisibile, ma anche a quello che è un aspetto visibile. Come il mistero di Chiesa comprende il visibile e l'invisibile, eccetera, con tutto quanto, così anche la comunione, la piena e perfetta, deve rilevarsi in rapporto a questi duplici. Tutto il resto che riguarda la comunione, fraternità, amicizia, tutte queste cose, elementi importanti, culturalità, ecco, le supponiamo. Secondo, il servizio specifico della comunione da parte del papato. Credo che qui è possibile cogliere una migliore intelligibilità del papato, qui intendo all'interno di questa chiesa comunione. Anzitutto, Se comunione è fondamentalmente e prioritariamente la Chiesa, il papato non è in essa una specie di masso erratico, non ne sta sopra né a lato, ha una sua organicità con tutto il popolo ecclesiale. In questo contesto vanno ricondotti alcuni aspetti a cui ho già accennato. Per esempio, recezione, conciliarità, collegialità, sinodalità, fraternità, uguaglianza fondamentale sulle corde del sulla base del sacramento del battesimo, la grande riscoperta dei temi ecumenici del Vaticano II, la sottomissione alla parola di Dio, la obbedienza della fede, eccetera. Così, ad esempio, recezione è concetto che deve essere precisato. Certo, non è la recezione che garantisce l'infallibilità di un atto propriamente definitorio, è perciò la certezza del giudizio connotato. Certo, non è la recezione letta in termini sociologici che può qualificare il valore dei documenti di studio delle varie commissioni ecumeniche, è peraltro la recezione ha pur un addentelato con il sensus fidelium che occorre approfondire assolutamente. A questo livello, se essa non può essere l'ultima parola, può e deve essere, uso una parola tanto per capirmi, la penultima. Intendo dire con ciò che può cogliere armoniche nuove nel testo definito, può manifestare una sua connaturalità con ciò che è definito, connaturalità che può assurgere a testimonianza di fede vera e propria. Così ancora, circa la conciliarità, essa comporta un primato che assicuri lo spazio legittimo ai credenti secondo i loro diversi ruoli. Li accoglie come portatori di una testimonianza cristiana, come collaboratori corresponsabili nell'azione della missione sacerdotale, regali, in particolare profetica. Si può allora cercare di comprendere che il primato universale del Papa abbia un suo scopo decisamente pastorale, che sia legato al suo incarico e ufficio episcopale, che il Papa abbia un'autorità che gli permetta di adempiere la sua missione, che abbia quell'autorità o potere necessarie per fare ciò, che tale autorità non possa teoreticamente e praticamente porsi in conflitto con altre forme di episcopè, di sorveglianza, cioè, ad esempio con quella del vescovo, della chiesa locale, quella del collegio. Si capisce cioè che sia complementare, che deve interpretarsi in termini analogici e assolutamente di sussidiarietà. Non si può evitare, tuttavia, a questo punto, lo specifico del servizio del Papa. Esso è anzitutto a servizio della sua comunità, della comunità ecclesiale di Roma. Sulla base della sede dove Pietro e Paolo testimoniarono, sembra relativamente certo storicamente, con il loro sangue, la parola. Qui egli può configurarsi come servizio alla Chiesa universale, servizio dunque anche indirettamente per le altre chiese e comunità cristiane. Il suo servizio è anche a livello universale, di unità e di comunione. Mi piace questa unità, attività di termini di comunione, come fa per esempio, rileva molto Moltmann, di unità e comunione nei conflitti all'interno della comunità ecclesiale, per salvaguardare la libertà del credente, la testimonianza del Vangelo, il servizio al Regno, divinità e comunione della comunità ecclesiale nei conflitti economici e politici della società, e di un'unità e comunione di fronte alle pressioni sociali e all'oppressione anche politica. Il suo è servizio della salvaguardia, pur nel superamento di tutte le forme di particolarismo, di tutte le legittime diversità delle chiese, secondo lo spirito e le esigenze di un'autentica cattolicità. Il suo è servizio nello Spirito Santo, anche verso la storia umana, la storia dell'uomo in quanto luogo di missione e di salvezza, in quanto spazio della missione, in quanto capacità di arricchimento e promozione della Chiesa stessa di Cristo. È questo servizio specifico del papato. Essa muove verso autentiche strutture di libertà umana e cristiana all'interno di un'ecclesiologia di comunione che si sforza di evitare ogni monismo o cristologico o pneumatologico e ogni temporalismo o soprannaturalismo, che si muove dunque tra fede e storia. Per quanto riguarda il terzo punto, il vescovo di Roma come personalità corporativa, lo tralascio, perché vedo che andrei avanti. Comunque, è una immagine secondo cui si cerca di approfondire, ecco, di leggere questo servizio a cui ho accennato. Un punto centrale della relazione è il secondo, ed è anche il punto forse più problematico. Una comunione nella diversità riconciliata. L'interrogativo che ci poniamo è il seguente. In che misura e in che modo le differenze ecclesiali si possono conservare nell'unione delle chiese? E pertanto, in che modo il papato, che è una presenza essenziale della Chiesa cattolica, può essere, deve presentarsi in tale riunione delle chiese? C'è prima un'affermazione, quindi faccio un'ipotesi e quindi pongo un interrogativo. L'affermazione. Il fatto delle presenze, della presenza di differenze presso le chiese e comunità cristiane che non sono pienamente in comunione con noi è riconosciuto dal Vaticano II. Rimando al numero 8 della Lumen Gentium. Qui si afferma che l'unica Chiesa di Cristo, una santa cattolica apostolica, sussiste nella Chiesa cattolica governata su Ciro di Pietro e da vescovi in comunione con lui, ma afferma pure che al di fuori del suo organismo si trovano parecchi elementi di santità e di verità che quali doni propri della Chiesa di Cristo spingono verso l'unità della Chiesa, l'unità cattolica. Tali elementi sono differenze operanti presso tale Chiesa. Esse sono esplicitate dal decreto Unitatis Reintegratio. La domanda che ci si può porre riguarda appunto il valore di tale presenza. Che cosa comporta il fatto di rapportarsi con l'unità cattolica? Sono più precisamente tali presenze abilitate a porre la domanda di un rispetto da parte della Chiesa cattolica che le preservi nella loro diversità? Possono essere esse spingere la Chiesa cattolica a concepire una unità fra le Chiese che non le faccia venir meno? E in che misura? Si tratta di un problema molto delicato. Fra assorbimento e frantumazione dell'unità, fra speciosità e realtà, concepita in un certo determinato modo, c'è dello spazio per la riflessione teologica. B. Cioè, secondo punto. La Chiesa cattolica e l'unità delle Chiese, l'ipotesi della diversità riconciliata. Il problema che qui si pone è quello della concezione dell'unità delle Chiese. Il primo punto rimanda a questo. In che cosa consiste l'unità delle Chiese? Non è questa una domanda peregrina o secondaria. Oggi essa entra nel dossier dei problemi della ricomposizione dell'unità e entra con il peso di una certa riflessione. Si è già fatto, infatti, una certa storia e qualcosa di nuovo sta uscendo sotto lo sforzo e dello studio di documento del Vaticano II, sotto lo stimolo della riflessione dei fratelli ortodossi protestanti anglicani, sotto l'urto di una dialettica che previene dalla storia. Se non si deve abbracciare una soluzione, non si deve neppure sedersi. Non si può uscirne a scapito della fede, mettendola fra parentesi, passando a lato, ma neppure fermandovisi quasi l'intelligenza della fede abbia percorso il suo cammino. Occorre passare attraverso le confessioni e inverarle. Il percorso sembra essere questo. Oggi si nota, è un fatto, una situazione in certo qual modo distante in alcuni aspetti dell'ecumenismo. C'è chi vorrebbe addirittura rimandare la ricomposizione dell'unità all'escatologia, voglio dire, non alla prima parte, alla patria celeste. È una posizione che ha suscitato reazioni negative anche in campo dei fratelli di altre chiese. Che l'unità perfetta sotto ogni punto di vista sia da rinviare, nessuna obiezione. Che realtà escatologiche siano all'opera nel presente salvifico, per esempio Spirito Santo, eccetera, trova senz'altro consenzienti, ma risulterebbe disfattista una posizione che ritenesse chiuso quello che si chiama il discorso ecumenico interconfessionale. Se tale però è la conclusione, guardiamoci attorno. Nessuna chiesa è riuscita a convincere le altre di essere la verità, protezione di Congar. La stessa Chiesa Cattolica, a parte qualche piccola eccezione, non parla più di ritorno delle chiese sorelle. Quale unità è dunque l'orizzonte verso dove ci si muove? Tre sono le prospettive che sembra di unità che sembrano configurarsi a livello della riflessione teologica. In questo passaggio mi rifaccio a Dante. La prima si colloca all'interno di una ecclesiologia universalistica in cui le chiese sorelle vengono a costituirsi in unità organica, diciamo così, con la Chiesa Cattolica di Roma. È il modello di unità tradizionale, la chiamiamo così. Trova spazio, evidentemente, anche nel Vaticano II. Un'altra prospettiva è quella di unità che parte dalle chiese locali e sulla base delle cosiddette ecclesiologia di comunione, particolarizzata anche così di eucaristica, raggiunge una unità fra le chiese. Anche questa unità trova, benché di meno, spazio nel Vaticano II, ci sembra. Ambedue queste concezioni di unità comportano una unità che ridimensiona, passi il termine, le differenze, le assume in una sintesi superiore. L'unità regge come concetto, le differenze sono varietà delle tradizioni, eccetera, che subiscono un certo, usiamo la parola, trattamento. Ci dà una terza ipotesi di unità con la Chiesa, quella della diversità riconciliata. Essa è stata, ci sembra, a suo modo, un punto di riferimento prioritario nel discorso fatto dal Cardinal Willebrand 1970 in un importante convegno, cioè a Cambridge, e ha portato avanti lui questa idea. L'idea che le differenti chiese rappresentano differenti tipoi, che non bisognerebbe abbandonare, ma conservare nella comunità dell'unica Chiesa di Cristo. Gli elementi che costruiscono un tipos sono i seguenti: un metodo e una prospettiva teologica caratteristica, un'espressione liturgica caratteristica, una tradizione di spiritualità e di devozione specifica, una disciplina canonica caratterizzata, eccetera. Willebrand dichiarava: la vita della Chiesa ha bisogno di una grande varietà di tipi che manifestano la pienezza del carattere cattolico e apostolico della Chiesa, una e santa. Propriamente di diversità riconciliata si parlò, in riferimento a questo intervento del Willebrand, per la prima volta nel documento di lavoro sul ruolo ecumenico delle alleanze confessionali mondiali elaborate nel 1974 dalla Conferenza dei Segretari delle Alleanze Confessionali Mondiali. Che cosa comporta questa diversità riconciliata? Comporta che restano le differenze. La domanda che viene subito è: che ne sarebbe del papato e della sua suprema e piena immediata giurisdizione? Che ne sarebbe dell'infallibilità? La domanda trova una risposta che sembra imbarazzare e deludere ogni cattolico. Il papato, secondo alcuni suoi aspetti, non avrebbe spazio in definitiva nelle altre chiese. Sarebbe così, in certo qual modo, proprio della Chiesa Cattolica. È possibile questo per un cattolico? Egli crede che il papato sia l'elemento costitutivo della propria fede. In definitiva si andrebbe verso una ricomposizione dell'unità, che non sembrerebbe unità, ma questi interrogativi sono superati, diciamo, d'un salto. Essi vengono, in un certo qual modo, capovolti. Ci si chiede: una Chiesa, la nostra in primo luogo, dovrebbe per l'unione imporre agli altri di ricevere dei dogmi definiti da essa in assenza degli altri? Diciamo, si può richiedere dai non calcedonesi di ricevere Calcedonia, dagli ortodossi di ricevere i dogmi del 1954 e 1870? La domanda è di Congar. Mi riferisco a quest'opera, già citata, Diversité et communion, uscita due o tre mesi fa. La risposta pura di Congar è: ci sembra che l'esperienza ecumenica orienti in questo senso. Ho parlato prima degli interventi che, su cui, a cui Congar si riferisce, per esempio Damaskinos, Papa André, poi anche altri, Emmanuel Lann in particolare, dice la stessa cosa. Il testo di Emmanuel Lann è molto limpido. C'è stato un confronto su questo punto da parte di Ratzinger e di De Vries con Lann e Bouillet. È una questione liberamente disputata, però si va in quel senso. Allora, la conclusione di questo punto è: sarebbe possibile all'interno di una diversità riconciliata un papato che tale è in tutta la sua figura per la Chiesa cattolica e che presso le altre chiese non è tale. In tutti i suoi aspetti. Il problema va all'infallibilità, in particolare. Ultimo, sento... Un'ora fa. Va bene, allora faccio molto presto. Terzo punto, con attenzione allo Spirito Santo e alla storia. Riferisco molto velocemente. In questo punto si dà attenzione a quello che sono gli ultimi principi metodologici di quanto ho detto nel numero 1 e 2. È impossibile fare una riflessione sul papato senza riferirsi nel dovuto modo e con spirito aperto allo Spirito Santo e alla storia. La missione, la teologia della storia, la solennità della Bibbia, la tradizione, le formule dogmatiche in tutto ciò che comportano esigono questa attenzione allo Spirito Santo e alla storia. E solamente all'interno di questa prospettiva è possibile dare credibilità a quanto si è detto nel numero 2, nel numero 1 di questo 2 romano e a quanto mi sembra fondamentalmente di aver rilevato nel numero 1 romano relativamente ai dialoghi ecumenici. Grazie dell'ascolto e...